Anche oggi non attingo alle letture bibliche, ma attingo dai santi. In particolare sto meditando alcune pagine di diversi santi che parlano della preghiera. E leggevo di Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa d'Avila, la Grande. In particolare ve ne riporto due di frasi che non hanno mancato di meravigliarmi. Una frase diceva: io non sono mai entrata, soprattutto all'inizio della mia vita religiosa, diceva, e ciò per molti anni, non sono mai entrata nella preghiera senza avere tra le mani un libro. È interessante, amici. Noi crediamo che sia facile pregare. È facile distrarsi. È facile chiedere, che pure è importante, eh? Ma non è facile concentrarsi e pregare. Per esempio, io trovo che il libretto, il messalino quotidiano, sia veramente una miniera. E quando arrivo in anticipo in chiesa, mi metto a leggerlo tutto, dal canto all'ingresso, alle letture, a tutto quanto, e trovo veramente, per esempio nel Salmo responsoriale, trovo tanti spunti per la mia preghiera. Quindi lo suggerisco anche a voi, amici. Mi direte che è un po' un tormentone, che vi ripeto, il messalino quotidiano. Avete ragione, finché non vi decidete però a prenderlo, io continuerò a tormentarvi, perché è un dono per voi. E come un professore a scuola vorrebbe che tutti gli alunni avessero tra le mani il libro di testo, un sacerdote sarebbe felice di vedere che chi partecipa alla messa ha in mano il libro di testo, il messalino, che, ripeto, ci aiuta nella preghiera comune, ma ci aiuta tantissimo anche nella preghiera individuale, personale, che non deve mai mancare. Certe volte qualcuno mi dice: ah, ma io vado in chiesa quando la chiesa è vuota e non ci sono gli altri. Beh, insomma, io accetto anche uno che ragiona così. Cosa vuoi stare a ragionare? Tante volte è gente lontana, è gente che non capisce il valore della messa, e dico: ma va bene, dai quello che puoi al Signore. Ma voi che venite a messa, non dico tutti i giorni, ma quasi, avete dei momenti in cui venite che la chiesa è vuota? Sapeste come si prega bene davanti al Santo Tabernacolo da soli? Se avete tra le mani la liturgia. Leggevo e meditavo un'altra frase ancora di Santa Teresa, che è considerata maestra di orazione, che diceva una frase ancora più stupefacente: quando vi mettete a pregare, chiedete sempre qualcosa a Dio. E io ho fatto un salto, dice: ma come? Ma non ripetiamo tante volte anche noi sacerdoti che la preghiera migliore è quella di lode, è quella del canto, è quella della contemplazione? È vero, ma bisogna andare a scuola dai santi, amici, andare a scuola dai santi. Ma questa grande santa sa che anche se noi chiediamo al Signore cose spirituali, il Signore ci ascolta. Anche perché in un'altra parte diceva che se noi domandiamo al Signore, noi lo facciamo contento, perché gli dimostriamo la nostra povertà. Solamente chi è pieno di se stesso non chiede niente, ma chi di noi scopre che è povero, che deve cambiare il carattere, che deve cambiare il suo giudicare le persone, che... diciamo oggi la messa del Sacro Cuore di Gesù, perché è venerdì, che deve avere un cuore infiammato come il cuore di Gesù verso Dio e verso il suo prossimo. Se noi gli chiediamo a Gesù: donami un cuore come il tuo, lui è felice di ascoltarci. Coraggio, amici, allora vi incoraggio a pregare, pregare, pregare con l'aiuto di un libro, possibilmente liturgico, o la vita di un santo, e poi a chiedere, ma chiedere soprattutto cose per la nostra santità, chiedere che cambi i nostri cuori, e se in casa abbiamo litigi, abbiamo fatiche, difficoltà, preghiamo per i nostri cari. Signore, cambia non il loro cuore, il mio, affinché possa essere capace di sopportarli.